per il mio amor passare. Su questa via c'è un bosco che si chiama Stupor. Al suo interno vive un angelo che ha rubato il mio cuore. Se ho rubato il tuo cuore, è perché ti voglio bene. Se ho rubato il tuo cuore, è perché l'hai rubato anche a me. Su questa via.